Welcome into the Nexus. Episodio 10. 100 di questi podcast. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday into the Nexus. Buon compleanno. Ebbene sì, cari amici, che riusciate a crederci o no, è già passato un anno, anzi poco più. Era il 5 di novembre del 2008 quando incominciai questo podcast seguendo l'onda così che arrivava dal bresciano e dagli amici Matt e Graz, l'onda di Nowherecast. È stato un anno intenso, sono successe tante cose, sono sempre più appassionato al podcasting e allo stesso tempo però faccio fatica a trovare il tempo di esprimermi con questo magnifico mezzo che è la voce, il contatto così un po' immaginario che c'è sempre stato anche tra gli ascoltatori della radio e gli speaker, i DJ e così via. Che siate tanti o pochi, sinceramente non importa. Quello che importa è che riusciate ad apprezzare almeno un pochettino quello che dico, sempre che vi sembri intelligente, ma soprattutto che apprezziate la musica che passo su questo mezzo potente e assolutamente incredibile se pensiamo alla velocità con cui si è diffuso che è internet. Orbene, un anno di Into the Nexus, dicevamo 10 puntate, siamo finalmente alla doppia cifra e oggi chissà se riuscirò a fare una puntata leggerina come quella scorsa oppure no, anche se poi a dirla tutta è andata a finire proprio maluccio. E comunque via, per non impelagarci subito in discorsi troppo articolati, strani, catastrofici, deprimenti, vi lascio con un pezzo. Loro sono belli cattivi, li avevo sentiti già su Nowherecast per l'appunto e forse su qualche altro podcast, ma non sono sicuro. Sono i Section 8 e questo è Black Wing Butterfly. Give up that easily. Damn. Benissimo, eccoci di nuovo insieme dopo questo pezzo di musica cattivello, un po' di sano rock quasi metallo come si deve. E il primo argomento di oggi, giusto per partire in scioltezza e in leggerezza, infrangendo tutte le promesse che erano state fatte pochi minuti fa, è la cosiddetta riforma della giustizia, o meglio... una legge, una intesa che dovrebbe essere varata con anche l'approvazione degli ex membri di Alleanza Nazionale, quindi di Fini e compagnia, riguardante la durata dei processi. Allora, prima di tutto vorrei mettere le mani avanti e dire che comunque io non riesco a seguire il filo che conduce a questa legge, perché se veramente si volessero rendere i processi più brevi, i processi in Italia sono troppo lunghi e ne siamo assolutamente coscienti, tutti quanti, che siano di destra, di sinistra, cittadini regolari, immigrati o chi altro, persino i delinquenti lo sanno che i processi sono troppo lunghi e infatti ne approfittano. Se veramente si volesse, dicevo, ridurre la durata dei processi, si potenzierebbero le strutture che sono il luogo e le persone addette allo svolgimento dei processi. Si terrebbero più concorsi per ottenere nuovi giudici e nuovi magistrati, si darebbero fondi alle cancellerie anziché costringerli a lavorare in costante carenza di organico, persino di materiale di prima necessità come inchiostri e toner per stampanti e cose simili. E invece in Italia tutto funziona al contrario: si fanno le leggi per allungare i tempi dei processi, dopodiché si dice i processi sono troppo lunghi e quindi accorciamo i tempi di prescrizione. È talmente grossa come idiozia che per fortuna non la fanno, ma adesso che cosa si dice? No, i tempi di prescrizione rimangono tali, però per le persone incensurate, e già qui non si capisce per quale ragione per le persone incensurate sì e per gli altri no, il processo deve concludersi nei 3 gradi di giudizio entro 6 anni, altrimenti niente di fatto, ce ne laviamo le mani e il tizio, anche se è colpevole, chi se ne frega. Prima di proseguire nella mia disquisizione in proposito, vorrei leggere un pezzo di Bruno Tinti tratto da Il Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 11 novembre 2009, che è proprio in prima pagina, e Tinti riesce ad essere sempre estremamente lucido e pacato ed educato, per cui penso che farà piacere a tutti che io legga le sue parole. Ecco qua. Ci prendono per scemi? Questo è il titolo del pezzo. Così avremo il processo breve per gli incensurati. Per gli altri, quelli già condannati, mettiamoci pure tutto il tempo che ci vuole. Entro 6 anni per l'incensurato deve arrivare la sentenza definitiva, colpevole o innocente. Se non arriva, chissà quale sarà la formula: prescrizione, fuori tempo massimo, squalificato, il giudice. Come al solito, pur di cavare Berlusconi dai guai, un sacco di delinquenti resteranno impuniti. Le parti offese saranno fregate alla grande e la povera gente resterà a marcire in galera. Fino ad ora i processi che si facevano per primi erano quelli con detenuti. Sei dentro? Ti processo subito, perché magari sei innocente, anzi, sei senz'altro innocente fino alla sentenza definitiva di condanna, e allora non devi stare in prigione un minuto di più di quanto strettamente necessario. Alla sentenza definitiva ci dobbiamo arrivare nel minor tempo possibile, anche perché ci sono i termini massimi di carcerazione preventiva. E se non mi sbrigo a farti il processo, finisce che esci per decorrenza del termine. E poi tutti si indignano perché i giudici fannulloni che scarcera... per i giudici fannulloni che scarcerano i mafiosi. Adesso però, i processi che si debbono fare per primi sono quelli per gli incensurati, perché più di 6 anni non potranno durare, e se non mi sbrigo non li finisco in tempo. Solo che gli incensurati in genere non stanno in galera in attesa di processo, sono, come si dice, a piede libero, proprio perché sono incensurati. E tuttavia prima si processeranno gli incensurati, perché poi non si può più, e dopo i detenuti che c'è tempo. Scusatemi, e dopo i detenuti che c'è tempo. Intanto se ne stanno in galera, magari da innocenti. E se si tratta di mafiosi che escono per decorrenza dei termini, pazienza. Se poi scomodiamo un po' di dialetto, viene da dire «Waiò, a canisciune fess!» Perché in 6 anni, per una guida senza patente, uno scippo, un oltraggio al vigile urbano o un processo lo si fa di sicuro. I problemi cominciano quando si tratta di processare un incensurato, ma guarda che combinazione, Berlusconi con le sue 6 prescrizioni è incensurato, per falso in bilancio o frode fiscale. Perché? Se cominciamo con le rogatorie alle isole Cayman, e i sequestri di documenti in qualche cavò dell'Ossetia, in 6 anni arriviamo sì e no al primo grado. Ultima chicca, con questo sistema Berlusconi e company sempre incensurati saranno, perché un processo per i reati che commettono loro non si riuscirà a fare mai. E così sempre al processo breve avranno diritto, in un circolo infinito. Ma proprio per scemi ci prendono? Beh, come ho anticipato, a me sembra che questo articolo di Tinti sia di una lucidità impressionante, ma quello che Tinti non dice, anche se credo che sia la cosa più evidente in questa possibile proposta di legge se sarà varata, è che per l'ennesima volta si va a intaccare il principio secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Tutti i cittadini godono degli stessi diritti e degli stessi doveri. Non si capisce per quale ragione, secondo quale ragionamento, un cittadino incensurato dovrebbe avere un termine di scadenza per i propri processi e gli altri no. Se c'è un termine di scadenza, deve essere uguale per tutti, a meno che ovviamente non dipenda dalla tipologia di reato, nel senso che se 2 persone hanno commesso omicidio e sono accusate della stessa tipologia di omicidio, quindi che ne so, omicidio volontario, la decorrenza dei termini, la prescrizione scatterà dopo lo stesso numero di anni per entrambi. Qua invece, se uno è incensurato, indipendentemente dal tipo di reato che abbia commesso, dopo 6 anni, così, gli ripuliamo la fedina penale, magari anche se è colpevole. E come al solito, chi ne trae maggior vantaggio, e lo spiegava bene Tinti, sono quelli che i cosiddetti colletti bianchi, quelli che commettono reati che sono estremamente difficili da provare perché richiedono tempo, perché c'è bisogno di andare a fare richieste presso istituzioni estere, magari in paradisi fiscali, e sappiamo quanto sia difficile. Quindi mi pare ovvio che questa sia l'ennesima norma cucita su misura non solo di Berlusconi, ma di tutta una categoria di figuri che stanno sia a sinistra che a destra, o che in politica non ci stanno proprio e sarebbe meglio che non ci entrassero mai, senza contare poi ovviamente di come questa cosa si aggancia all'approvazione del recente scudo fiscale, che è uno scandalo incredibile secondo me, e comunque di questo parleremo un po' più avanti. Adesso di nuovo musica, senza nemmeno il titolo, ve lo dico dopo. godetevela. Li avete riconosciuti? non lo so se li avete riconosciuti, ma sappiate che comunque erano già passati su questo podcast diverso tempo fa, sono passati su diversi altri podcast nel frattempo, tra cui, se non ricordo male, il podcast di Sio, Serietà innanzitutto, e loro sono gli All My Faults. Il pezzo si intitolava Sand of Time, l'album è The Anger Manifest. Torniamo a noi. L'episodio scorso ho saltato l'appuntamento con la sentenza dal calzino turchese, oramai la chiamerò così d'ora in poi, visto che c'è stato l'episodio scandaloso di cui tutti siamo a conoscenza, e invece vado avanti nella lettura e nella interpretazione, spero corretta, in questa puntata. La volta scorsa abbiamo visto le motivazioni che hanno portato al respingimento delle tre o quattro, non ricordo bene, come si chiamano, oddio, eccezioni, se così vogliamo dire, sollevate dalla difesa, quindi dal gruppo Fininvest. Fininvest è? Non vorrei dire una stupidaggine, sì, Fininvest, esatto. E abbiamo visto perché si sia ritenuta anomala la sentenza stilata dal giudice Metta per tutta una serie di motivi, tra cui, tra parentesi, i tempi di stesura, eccetera, eccetera. Oggi invece andremo a leggere i punti 52 e 53 che riguardano una presupposta a seconda copia o plurime copie della sentenza, quando invece lo stesso giudice Metta disse che ne esisteva una copia soltanto. Questo è il punto 53, e il punto 52, le anticipazioni fatte sull'esito della sentenza dall'allora presidente della Consob. Partiamo proprio da quest'ultimo argomento, che è il punto 52, quindi andiamo in ordine cronologico nella sentenza, e si legge che la vicenda ha per l'appunto due protagonisti, il dottor Bruno Pazzi, all'epoca presidente della Consob, come già detto, e l'avvocato Vittorio Rippa di Meana, legale della CIR, quindi della CIR Mondadori, della CIR, il gruppo di De Benedetti. Dice Rippa di Meana in una sua deposizione, quindi come testimone, di aver avuto un incontro poco prima del Natale del 90 col Pazzi, e che i contenuti siano sostanzialmente questi. Si venne a parlare di questa vicenda ed io dissi al presidente della Consob che aspettavamo una sentenza in tempi rapidi, e lui mi rispose, con mio grande stupore, che la sentenza era già stata decisa e che quindi ci era sfavorevole. Espressi molto stupore sia per la notizia sia per il fatto che lui me la desse, e lui disse che comunque queste erano le notizie che aveva e che quindi noi avevamo un'unica strada di fronte a questa situazione sfavorevole che sarebbe venuta a seguito della sentenza della Corte d'Appello. Mi disse che l'unica soluzione sensata per noi, per il gruppo CIR, ma anche a suo parere per la controparte, era di trovare un accordo sulla spartizione del gruppo editoriale. Ripetiamo, secondo l'avvocato Rippa di Meana, questo incontro sarebbe avvenuto prima del novembre del Natale, scusatemi, del 1990, ovvero nell'intervallo tra il 5 dicembre e il 14 gennaio dell'anno successivo. 14 gennaio, che fu data della Camera di Consiglio della data della decisione di fatto della Corte d'Appello. Si legge nella sentenza che il Pazzi, che all'epoca non poté partecipare alla dice il Pazzi non poté essere presente al dibattimento penale perché in cattive condizioni di salute, ha negato costantemente ogni tipo di accusa. Dice però il giudice deve essere rilevato invece che il test Pazzi, per allontanare ogni possibile sospetto da sé, ha negato troppo. E cioè ha negato, da un lato, che la conversazione con Ripa di Meana avesse avuto minimamente ad oggetto la vicenda giudiziaria di cui si occupa, dall'altro che egli si sia interessato alla vicenda del Lodo Mondadori, di cui ricordava a malapena l'esito. Quindi il Pazzi non nega di aver avuto un incontro con l'avvocato Ripa di Meana, anche perché quell'evento era riportato nell'agenda del Ripa di Meana stesso. Nega però di aver parlato con lui della sentenza o della situazione della Mondadori, del caso Mondadori. Dice il giudice: orbene, su questi due ultimi punti le dichiarazioni del Pazzi non sono credibili. Ed infatti la vicenda della guerra di Segrate era allora al centro dell'attenzione dei medias, così come era anche oggetto di interesse da parte della politica. E bisogna inoltre considerare che la circostanza che il Pazzi era all'epoca presidente della Consob, e cioè dell'organo istituzionalmente deputato al controllo sulla borsa e sulle società quotate in borsa, quali erano le società già indicate, e che quindi il Pazzi stesso non aveva potuto non interessarsi al destino del più grande gruppo editoriale italiano dell'epoca, la cui vicenda lo riguardava quantomeno da un punto di vista istituzionale. Poi vabbè, si ricorda come le stesse ragioni siano state riportate nella sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio a giudizio, ma per di più ci sono altre due testimonianze dei dottori Corrado Passera ed Emilio Fossati, che all'epoca dei fatti erano membri della uno della Mondadori, il dottor Passera, dal 1990 giugno al 1991 aprile, e l'altro invece faceva parte del CDA della Mondadori, su indicazione di De Benedetti, dal maggio 1986 al gennaio 1990. Queste due persone, che poi hanno avuto carriere diverse, hanno proseguito su diverse strade, all'epoca dei fatti però, quindi ricordiamo, erano all'interno di Mondadori. Comunque sì, prima avevo detto bene, all'epoca era il gruppo CIR Mondadori, non ricordavo male comunque. Dice la sentenza: il primo, ovvero sia Passera, ha dichiarato che al ritorno dalle ferie natalizie del 1990 e dunque ai primi di gennaio 1991, il Ripa di Meana gli aveva riferito in questi termini il colloquio avuto con Pazzi. Pazzi, il presidente della Consob a quel tempo, aveva detto: guardate, la sentenza è a vostro sfavore. Emilio Fossati ha dichiarato che, avendo mantenuto buoni rapporti con Carlo Caracciolo, nel sentirsi al telefono poco prima delle feste natalizie del 1990, questi gli disse che l'avvocato Vittorio Ripa di Meana aveva riferito del fatto che Bruno Pazzi dicesse che la sentenza era già stata scritta. Quindi ci sono questi due testi entrambi di Area Cira al momento dei fatti, sempre nella sentenza si legge, ma che successivamente proseguirono la loro carriera in altri gruppi imprenditoriali che, in maniera sostanzialmente conforme, hanno riscontrato le dichiarazioni del Ripa di Meana. Conclusivamente reputa questo ufficio che, per tutte le considerazioni esposte in precedenza, le dichiarazioni dell'avvocato Ripa di Meana vanno ritenute veritiere e che il Pazzi abbia invece negato il vero. Pertanto la circostanza dell'anticipazione della decisione deve essere da questo tribunale considerata come un'ulteriore anomalia dell'iter decisionale della causa medesima. Punto 53 invece è esistenza di copie diverse dall'originale della sentenza della Corte d'Appello di Roma. Qua, questo è un punto molto breve. Si dice: nella già citata denuncia querela in atti, documento G6 CIR, il MET ha dichiarato: al termine della dattiloscrittura e collazione della sentenza fu stampato un solo esemplare e dopo l'esame da parte del presidente del collegio e le correzioni fu formato l'originale che, dopo le firme, fu immediatamente pubblicato a cura del cancelliere della sezione. Orbene, il Tribunale Penale di Milano ha, con motivazione estremamente dettagliata e puntuale, dimostrato alle pagine da 207 a 217 della sentenza numero 4688 del 2003 che, contrariamente a quanto affermato dal Metta, della sentenza numero 259/1991 della Corte d'Appello di Roma esistevano più di una copia, riportanti alcune differenze tra loro. Questo ufficio, al fine di non appesantire eccessivamente la presente motivazione, ritiene opportuno riportarsi integralmente alla suddetta parte della sentenza penale di primo grado, le cui argomentazioni espressamente il Tribunale ritiene di condividere. Del resto, anche la sentenza numero 737/2007 della Corte d'Appello Penale di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha portato detta parte della motivazione della decisione in primo grado. Anche sotto il suddetto profilo sono dunque le dichiarazioni del Metta da disattendere. Ritiene quindi il giudice Mesiano che le dichiarazioni rilasciate dal giudice Metta riguardo all'esistenza di un'unica copia della sentenza da lui redatta siano false e questo sia ulteriore motivo di sfiducia e di insicurezza nei confronti della sentenza stessa. Questi erano due ulteriori punti, quindi per oggi ci fermiamo qua con la sentenza Mondadori e la sentenza turchese e adesso è ancora tempo di musica. So don't you worry, fuzzy darling. Come dance together into the morning light and night. We'll never let you go. So won't you leave me alone and crying side by side. We walk into the light. Stay with me beyond the end of time. Beyond the end of time. Questo era lo stile inconfondibile dei Pornophonique, pezzo dal titolo molto intrigante, Lemmings in Love. Lemmings in Love, tutti quanti, insomma, chiunque abbia avuto un computer che fosse un PC, un Amiga, un C64, qualsiasi cosa che vagamente assomigliasse a un computer nei primi anni 80 credo abbia assolutamente adorato questo gioco, Lemmings per l'appunto, in cui si controllavano questi omini sballonzolosi dai capelli verdi e dai vestitini blu, e gli si faceva fare le cose più strane, compreso esplodere, nel tentativo di portarne in salvo il più possibile. Vi ricordo che i Lemmings sono dei roditori che vivono molto molto a nord, non ricordo esattamente dove, comunque quasi in regioni artiche, e che sono famosi per avere questo atteggiamento che pare essere un meccanismo di autoconservazione, nel senso che limita automaticamente il numero di elementi presenti nella popolazione, e dicevo questo meccanismo per cui ogni tot loro prendono e partono in massa verso il mare e si gettano nell'oceano annegando in buona parte, quindi insomma ecco, la madre natura non smette mai di insegnarci, e i Pornophonique ne hanno tratto un'ottima lezione, mi pare. Comunque, passiamo ad argomenti più leggeri. Volevo così tornare su quello che ho già detto nell'ultimo post sul mio blog, e cioè parlare dei miei due ultimi acquisti, che sono ancora in via di transito, quindi non so esattamente quando arriveranno qui in Corea, ma mi auguro che arrivino presto. si tratta di che cosa? Si tratta di un amplificatore, un preamplificatore per microfono con due ingressi e di una scheda audio ulteriore che, udite udite, mi consentirà di utilizzare un qualsiasi microfono con attacco XLR e attaccarlo direttamente a un qualsiasi computer che abbia una porta USB che garantisca anche l'alimentazione. Dunque, il preamplificatore è l'M-Audio, M-Audio Audio Buddy si chiama, ed è non è portabile come per esempio la mia scheda audio USB esterna che sto usando adesso, per il semplice motivo che ha bisogno di un'alimentazione da presa di corrente. C'è un alimentatore classico, e quindi la cosa può limitare l'usabilità per chi è sempre in movimento, ma la mia idea è quella di utilizzarlo per l'appunto a casa, in abbinamento alla soluzione audio che ho già adesso. Quindi mi servirebbe solamente per aumentare un pochettino i guadagni, che sono comunque bassini nonostante il nuovo microfono a condensatori, e per permettermi di eventualmente utilizzare due microfoni insieme, visto che uno è dinamico, l'altro è a condensatori, e i livelli di ingresso sono decisamente differenti, quindi potrei equalizzare in questo modo i due microfoni. Non è particolarmente caro, costa intorno ai $60 su Amazon. Qui in Corea si trova purtroppo a un prezzo che è decisamente maggiore, quasi del 50%, e quindi ho deciso di farlo arrivare per l'appunto da Amazon e di farmelo spedire da un amico insieme all'altro oggetto. Altro oggetto che è il l'Icicle, si chiama Icicle, ovvero sia come si dice in italiano, me lo sono scordato, il ghiacciolo. Il ghiacciolo della Blue Microphones, che è questo per l'appunto adattatore da cavo XLR a USB che garantisce anche i 48 watt potenza phantom, potenza fantasma, che sono necessari per i microfoni a condensatori. E avevo dunque in questo momento costa $36 sostanzialmente, e con spedizione gratuita peraltro sempre su Amazon, e l'idea sarebbe se e quando arriverà la Open Pandora di utilizzarlo con questo dispositivo portatile. Voi direte: che cosa te ne fai? Beh, ci registro il podcast in giro con una qualità audio decente, ovviamente, no, perché la Pandora avrà sicuramente il suo microfono integrato e avrà i classici jack da 3,5 mm, quelli per intenderci che si trovano sui lettori MP3, sui lettori di cassette CD, sia per le cuffie che per il microfono. Però la qualità sarà ovviamente limitata dalle dimensioni dell'elettronica. Sappiamo tutti che quanto più piccolo è un microfono, quanto peggiore è il segnale audio, cioè per quanto la tecnica migliori, più di tanto non si può fare, alla fisica non si scappa. E questo per l'appunto mi consentirebbe di portarmi in giro magari non il microfono a condensatori, ma il microfono dinamico, che è un pochettino più maneggiabile dal punto di vista della forma proprio, e di registrare con una discreta qualità. Poi insomma sarà bello cercare anche di portare applicazioni audio sulla piattaforma Pandora, magari se non Audacity qualcosa di un po' più leggero, in modo da poter comporre al volo, tenuto conto che poi Pandora supporta per ogni scheda SD, e ricordiamo che ci sono due slot SD fino a 32 GB, quindi c'è spazio abbondante sia per la musica che per ore e ore e ore di registrazione. Bene, direi che dopo questo piccolo riassunto dei miei ultimi acquisti vi dirò che in questo momento, se non fosse che i soldi sono proprio una limitazione fortissima in questo periodo, perché non posso concedermi tantissime spese. Questa è stata una piccola mattata, una piccola follia, ma non credo di poter fare altro. Se ne avessi, credo che mi butterei su una Pentax KX, che è l'ultima reflex di fascia medio-bassa rilasciata da Pentax, che ha veramente tutta una serie di feature molto interessanti. Un'ottima qualità dell'immagine, un sensore davvero pulito anche alle alte sensibilità, possibilità di registrare video in 720p, quindi video ad alta definizione a 24 frame per secondo, con controllo non completo ma comunque controllo parziale dell'apertura della lente, da impostare prima di iniziare la registrazione, se non ricordo male. O forse mi sto confondendo con un'altra macchina fotografica e la KX consente di il controllo completo, questo non me lo ricordo. Comunque è davvero davvero molto bella, e costa molto meno di tanti altri modelli che stavo adocchiando, perché siamo credo nell'ordine dei 600 euro, 600-700 euro. Speriamo, chissà che non riesca a trovare qualche impiego temporaneo, o che ne so, che l'anno prossimo finalmente mi diano un posto da docente temporaneo in qualche università, in modo da poter soddisfare queste mie voglie da geek, perché purtroppo non posso negare la mia natura. Su, via! Questa volta è davvero davvero finita, non la puntata ma questo stacco leggero, e indovinate un po', musica. Deal with peace. E questi erano i Mandrake Root con Feed Me Anger, il titolo della canzone, da Magnatune. È la prima volta che provo a sfruttare un mezzo diverso da Jamendo per scaricare la musica da passare qui su Into the Nexus, ma credo ne sia valsa la pena. E vorrei parlare dello scudo fiscale adesso, giusto per mantenere la puntata leggera, come avevo promesso per l'appunto in... ad inizio di puntata. Tra parentesi, oggi non è più l'11 di... in questo momento non è più l'11 di novembre, sono passati due giorni, non sono riuscito a finire la registrazione in tempo. Vabbè, poco male, spero di riuscire a pubblicare nel fine settimana. Prometto che sarà una cosa piccolina sullo scudo fiscale, non voglio fare troppe polemiche, voglio solamente cercare di capire se è vera sta storia che uno si può riportare in Italia soldi, tanti, su cui presumibilmente tanti, su cui non ha pagato le tasse, pagando solamente il 5% della somma per l'appunto su cui ha evaso e tenendoli fuori dall'Italia. Io sono riuscito a trovare, ricordiamoci che lo scudo fiscale non è una legge a sé, ma è parte della, oddio, com'è che si chiama? Della legge del 3 agosto 2009 numero 102, ovvero della cosiddetta legge anticrisi. Si tratta in particolar modo dell'articolo 13 bis della suddetta legge, e tutti quanti per l'appunto giornali, telegiornali, Anno Zero piuttosto che altre trasmissioni, hanno riportato come per l'appunto dato vero questa aliquota del 5%. Ora io, cercando banalmente il numero 5 all'interno della legge, del testo di legge, sostanzialmente non sono riuscito a trovarlo, e andandomi a leggere l'articolo 13 bis, anzi guardate, è talmente corto che ve lo leggo proprio nella sua interezza, insomma, da quello che sono riuscito a capire io, ne avevo parlato anche con Matte Graz, l'aliquota è dell'1%, non del 5%. E adesso vedremo perché. Articolo 13 bis. Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato. Comma 1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali. A. Detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 90 numero 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 90 numero 227 e successive modificazioni. B. A condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da stati non appartenenti all'Unione Europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in stati dell'Unione Europea e in stati aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Notate bene che qua, come al solito in legalese, ovvero viene utilizzato nella sua accezione un po' più arcaica, ovvero quella di oppure, e quindi... sostanzialmente si dice a condizione che esse siano in stati non appartenenti all'Unione Europea oppure appartenenti all'Unione Europea, ovvero dovunque si trovino. Comma 2. L'imposta si applica come segue. Su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite. Con un'aliquota sintetica del 5% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. Ovvero sia, che cosa si dice? Lo Stato presuppone che tu, tenendo i soldi o la tua attività all'estero, abbia avuto, una cosa incredibile, ben il 2% annuo di rendimento. Adesso, io ho i miei dubbi che uno tenga fuori i soldi per avere il 2% di rendimento annuo, mi aspetterei, che ne so, un 5-6% almeno, a dir poco. E comunque su queste su questo 2% all'anno, ok, quindi se avete tenuto fuori i che ne so, i vostri 100 milioni per un anno, vi viene fatto il computo sul 2% dei 100 milioni, cioè su 2 milioni. Se li avete tenuti fuori 10 anni, per esempio, è il 2% per 10 anni, cioè 20 milioni. Su questa somma l'aliquota è del 50%, ovvero sia la metà del rendimento lordo presunto. Adesso a casa mia la metà del 2% fa l'1%, non il 5%. E questo è davvero scandaloso, perché vuol dire che è persino peggio di come ci avevano raccontato. Il resto dell'articolo, vabbè, indica le modalità di rimpatrio o regolarizzazione, quali sono le... che cosa sono, quali effetti produce il pagamento dell'imposta, eccetera eccetera eccetera. Comunque, questo è quanto, questo è il testo di legge. Magari sbaglio, magari sono io che sto andando a prendere la legge sbagliata, non lo so, non sono un esperto di finanze e quindi sto interpretando male i numeri, anche se qua c'è poco da interpretare, si tratta di proprio di aritmetica terra-terra. Fatevi un po' l'idea voi di quello che è questa legge e dello scandalo che è stata da una parte la destra, la maggioranza di governo, che ha con un numero di assenze assolutamente spropositate, e la maggior parte perché si è scoperto poi, eclatante il caso di Barbareschi per esempio, questa punta di diamante dell'arte teatrale italiana, no? Che la maggior parte dei deputati ha un doppio lavoro, e dall'altra parte della sinistra, in un giorno importantissimo in cui si sarebbe potuta bloccare una legge che a me fa vomitare proprio anche solo a guardarla, così si sono contate defezioni anche di nomi molto importanti. Mi sembra no, Veltroni no, però tipo mancava D'Alema, non mi ricordo, comunque soprattutto nel più grosso partito di opposizione, che è il PD. E qua ancora una volta a me il PD sta facendo cadere, scusatemi lapsus, cadere le braccia, per non dire i testicoli. Va bene, avevo promesso che l'avrei fatta corta e corta sarà, quindi adesso è nuovamente tempo di deliziare le vostre orecchie con qualche cosa che andrò a pescare adesso, perché non ho avuto tempo di programmarle in anticipo. Ci risentiamo tra 3 o 4 minuti, buon ascolto. Bene, questa era Guitar Rag dall'album Cypress Groove Blues di Jag, o dei Jag, non lo so, sempre da Magnitude. Volevo lasciarvi con una considerazione prima di dedicarmi alle faccende domestiche, visto che ormai abbiamo superato l'ora di trasmissione e io devo ancora fare il bucato, pulire la gabbia dei conigli, le gabbie dei conigli, eccetera, eccetera. Ma se il problema della giustizia italiana, come sostengono alcuni, è davvero che i nostri giudici sono dei fannulloni e non lavorano abbastanza, c'è chi dice 4 ore, c'è chi dice 6, ma comunque poche, perché non si fa in modo legalmente, quindi non si fa una legge, non si cambia l'ordinamento giudiziario facendo in modo che i giudici, oltre alle 4 ore o 6 ore, quelle che sono, in cui devono per forza rimanere in tribunale per seguire le udienze, non siano costretti a rimanervi altre, che ne so, 4 ore, 5 ore a scrivere le sentenze invece di fargliele scrivere a casa, perché poi il principio è quello, non è che finita l'udienza, finite le udienze, il compito del magistrato è finito. Ecco, questo potrebbe essere, secondo me, un buon suggerimento nei confronti di questo governo o del governo che verrà, insomma, se veramente è questo il problema della nostra giustizia, e io sinceramente dubito che il problema sia questo. Va bene, questo è quanto. Di nuovo grazie a tutti, di nuovo buon compleanno al mio podcast Into the Nexus. Ops, scusate, sentite i rumori di sottofondo, è la mia mano che sbatte qua e là perché mi sto agitando come un maniaco davanti al microfono, sto facendo tutto da solo. E, oh, mi raccomando, statemi bene, godetevi quest'ultimo pezzo di musica, loro sono i Dark Dew e il pezzo si intitola omonimamente alla band Dark Dew, dall'album Dark Dew, credo. Abbiamo una tripletta di Dark Dew. Alla prossima. Falls on her.